Bibbia Martini, primo libro delle cronache, 1 CR, 3 generazioni di Davide, e dei re di Giuda della stirpe di Davide coi loro figliuoli e figliuole. Davide e poi ebbe questi figliuoli, i quali nacquero a lui in Hebron, Ammon primogenito figliuolo di Achinom Jezreelitide, secondo Daniel di Abigail del Carmelo, terzo Assalone figliuolo di Maacia figliuola di Tolmai re di Gessur, il quarto Adonia figliuolo di Agit, il quinto Safatia figliuolo di Abitai, il sesto Getram figliuolo di Egla sua moglie. 6 figliuoli pertanto ebbe Davide, mentre stava in Hebron, dove regnò 7 anni, e 6 mesi. Regnò di poi in Gerusalemme 33 anni. E in Gerusalemme ebbe questi figliuoli, Simaa, e Sobab, e Natan, e Salomone, tutti i 4 di Betsabè figliuola di Ammiel, e di poi Gebar, ed Elisama, ed Elifalet, e Noge, e Nefeg, e Iafia. E anche Elisama, ed Fluida, ed Elifalet, 9. Questi sono tutti figliuoli di Davide senza i figliuoli delle concubine, ed ebbero una sorella, cioè Tamar. Figliuolo di Salomone fu Robom, il di cui figliuolo Abia generò Asa. E da questo fu generato Giosafat, il quale fu padre di Joram, e Joram generò Ocozia, il quale generò Joas. Di Joas fu figliuolo Amasia, il quale generò Azzaria. E di Azzaria fu figliuolo Jotan, il quale generò Acaz padre di Ezechia, da cui venne Manasse. Manasse poi generò Amon padre di Josia. Figliuoli di Josia furono Joanan primogenito, secondo Joachim, terzo Sececia, quarto Sellum. Di Joachim nacque Jeconia, e Sedecia. Figliuoli di Jeconia furono Asir, Salatiel, Melchiram, Fadaia, Senneser, e Jecemia, Sama, e Nadabia. Di Fadaia nacquero Zorobabel, e Semei. Zorobabel generò Mosollam, Anania, e Salomit loro sorella. E anche questi 5, Asaban, e Ol, e Barachia, e Asadia, e Josabesed. Figliuolo di Anania fu Faltias, il quale fu padre di Jeseia, di cui fu figliuolo Rafaia, il quale fu padre di Arnan da cui nacque Obdia, di cui fu figliuolo Sechenia. Figliuolo di Sechenia fu Semeia, del quale furono figliuoli Attus, e Jegal, e Baria, e Naria, e Safat e il numero 6. Di Naria furon 3 figliuoli, Elioenai, ed Ezechia, ed Ezricam. Figliuoli di Elioenai, Odvia, ed Eliasub, e Feleia, e Akkub, e Ioanan, e Dalaia, e Anani, 7. Note, 3,1, Jezreelitide. Di quella città di Jezrabel, che era nella tribù di Giuda. Ios. 15, 56 secondo Daniel. Egli si chiamava anche Chelib. 2, regione terzo, 3. 3,5, tutti i 4 di Betabee. Quando adunque di Salomone dice Sine Proverbi fu figliuolo unigenito di sua madre, si intende, Ciaccia ei fu il figliuolo più amato di Betisabea. 3,7-8, Elifeleteci. Questo nome si trova 2 volte in questo luogo come. Anche capitolo 3, credesi, che il primo essendo morto nell'infanzia, David diede il suo nome a un 9. Messi a parte i 4 figliuoli di Betsabea. Nel libro secondo dei Cre, capitolo 15. 14. Si contano 11 figliuoli di Davide, probabilmente perché 2 in tenera età morirono senza lasciar figliuoli. 3,16. Jeconia. Detto anche Gioachin, e Cenia. 4. Reg 24, 6, Jerem. XXII, 28. Secondo l'ebreo. E Sedecia. Questi non debbe essere quel Sedecia, che fu l'ultimo re avanti la cattività. 3,18, Melchiram, Fadaia, esempio. Questi furono figliuoli di Salatiel, nipoti di Econia. 3,10. Di Fadaia nacquero Zorobabel, e Cines Matteo, i 12. Zorobabel è detto figliuolo di Salatiel, cioè nipote. Zorobabel generò Musollam Anania. Uno di questi due figliuoli di Zorobabel portò anche il nome di Abiud, Met.i.13. 3,22, numero 6. Compreso il padre Semeia. In alcuni MSS, e in varie edizioni vedesi aggiunto un Sera, ma questo nome è nato dal numero stesso preso attraverso per un nome proprio.